e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, eccoci, tornate tutte e due qua insieme qui a Milano. Ti sono mancata? Ti stavo facendo la stessa domanda, qua ci siamo passate il testimone a Parma. Perché ci manchiamo? È vero, qua ormai questo duetto è completamente consolidato, per cui quando è separato un po' ne soffre, soprattutto quando devo fare i tuoi argomenti di cuore, che devo dire mi devo cimentare con la comunità scientifica e medica, ed è un lavoro molto interessante. Comunque non mi vedi cresciuta intellettualmente parlando? Molto, tra l'altro io... Sei tornata in un bel giorno particolare, peraltro osservavo dal calendario adesso. Un giorno da strega. Venerdì 13. Tu sei scaramantica? No. Io devo dirti di no, soprattutto sulla questione del gatto nero che attraversa la strada, io comunque andrei a coccolarmelo. Allora, sicuramente perché tu ami gli animali come li amo io, però tanto nessuno ammette di essere scaramantico. No. Poi invece le ricerche raccontano cose diverse e soprattutto alla fine ciascuno ha i suoi rituali. Mi piacerebbe sapere quelli dei nostri amici che ci stanno seguendo da casa, ma se siete un po' scaramantici o superstiziosi, state tranquilli perché l'unica data a rischio nel 2016 è prossima, ma ce n'è solamente una. E guarda un po', Deborah, che data è? Venerdì 17 giugno! È una data particolare, possiamo fare il quizzettone su questo argomento. Sapete cosa si celebra in questa giornata? Io non ve lo dico, ma farò un countdown da qui a quel giorno e ci ritroveremo per festeggiare di cuore un bel compleanno. Tanto lavoriamo, va qua in attesa di celebrare con le torte i prossimi compleanni e facciamo la nostra rassegna stampa cominciando con quella di denari che oggi parte con la borsa, una nuova giornata storta per Piazza Affari che sta perdendo un punto, perdono mezzo punto Parigi, Francoforte e Londra. Intanto, cara mia, Salvatore Ferragamo fa più 6% dopo i conti pubblicati ieri sera, insieme a Yux e Net-a-Porter più 3 punti, vanno bene Snam e Retegasse più 1,46%, dopodiché iniziano i segni meno e i peggiori titoli sono Unipol Sai, stamattina il gruppo ha presentato il piano industriale, evidentemente non piace tanto al mercato perché i titoli perdono 5 punti e mezzo e 4 punti, riperde 5 punti il Banco Popolare, la Popolare di Milano meno 3,8, Mediobanca meno 3, Pop Emilia Romagna meno 2,83%, insomma la settimana non è destinata a chiudersi bene per i mercati finanziari, l'euro è a 1,1347 sul dollaro. Si avvicina sempre di più la scadenza, 16 maggio, segnatela in agenda, per presentare le autocertificazioni per evitare di pagare due volte il canone imposta RAI in bolletta. Vi ricordo che le situazioni più a rischio, lo segnalano le associazioni dei consumatori, di doppio pagamento riguardano le seconde case, gli eredi di abitazioni nelle quali la bolletta è ancora intestata alla persona defunta e gli studenti fuori sede o, più in generale, chi convive con altre persone ma ha residenza anagrafica altrove. L'avvocato Emanuela Bertucci di ADUC, che è già stata ospite di Cuore Denari, ha riassunto in un video i consigli e le informazioni più importanti. Noi lo stiamo pubblicando in questo momento anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, per cui non perdetelo. Parliamo di pensioni. Ogni giorno arriva qualche dettaglio in più rispetto al decollo dell'APE, l'anticipo pensionistico, che renderà più flessibili le uscite verso la pensione agli over 63. Matteo Renzi, ieri sera Porta a Porta, ha parlato di un taglio tra l'1 e il 3% l'anno, con la possibilità di arrivare eventualmente a quota 4% per gli assegni più elevati. Questa dovrebbe essere la forbice per la riduzione dei trattamenti previdenziali. Per chi sceglierà di anticipare l'uscita, la riduzione della pensione sarà comunque variabile sulla base del numero di anni dell'anticipo e dell'entità dell'assegno percepibile al momento del raggiungimento della soglia di vecchiaia. A proposito di pensioni, non dimentichiamo certo che a partire dal 20 maggio prossimo verrà avviata in via sperimentale la procedura, sempre introdotta dalla legge di stabilità, sul part-time per la pensione che riguarderà i lavoratori che maturano invece l'età pensionabile entro il 2018. Ricordiamo che la possibilità è quella di scegliere un tempo parziale tra il 40% e il 60% dell'attuale orario lavorativo, mantenendo gli stessi contributi previdenziali del tempo pieno. Ci ritorneremo senz'altro. E per la rassegna stampa di cuore, Deborah, ti porto al mare. Sì. Perché come ogni anno in questo periodo arrivano puntuali le bandiere blu, che è un riconoscimento di eccellenza conferito dalla Federazione per l'Educazione Ambientale, che premia le località in base alla qualità delle acque, alla pulizia delle spiagge, al servizio offerto. In questa speciale classifica mia bella Debora, sì, si piazzano al terzo posto le tue Marche. Dai, dai. Quindi la Toscana, la medaglia di bronzo. E in testa troviamo la Liguria, un totale di ben 293 lidi che sono stati premiati con la bandiera blu. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti e prima o poi arriverà la bella stagione e quindi andremo al mare e in quell'occasione, mi raccomando, ricordatevi di camminare a piedi nudi sulla sabbia, fatelo, perché questo aiuterà a rigenerare e a difeticare i muscoli e soprattutto per chi vuole avere davvero un massaggio benefico, meglio camminare, dicono gli esperti, con l'acqua al ginocchio, perché l'azione dell'acqua sulle gambe e quella della sabbia sotto le piante dei piedi facilitano il cosiddetto ritorno venoso, la risalita del sangue attraverso le vene verso il cuore, che migliora quindi la circolazione e l'ossigenazione del sangue. Parliamo di sogni, i sogni sono desideri, Cenerentola Docet, ma non solo, nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra vita, lo aveva scritto in tempi non sospetti Shakespeare nella Tempesta e oggi anche la scienza lo conferma. Pensate che c'è un laboratorio, il laboratorio di psicofisiologia del sonno e del sogno a Bologna, che per 40 anni, notte dopo notte, ha raccolto i sogni dei volontari. Il risultato è un archivio dei sogni che raccoglie ben 800 racconti dei sognatori, ma per raccontare i sogni bisogna ricordarselo. Tutti sogniamo, ma al mattino spesso non sappiamo più che cosa, chi ci è venuto a trovare, che cosa abbiamo fatto. Allora anche qui, se volete ricordare i vostri sogni, ricordatevi di memorizzarli, di scriverli, di appuntarli. Avete tempo 15 minuti dal risveglio, perché poi svaniscono. E quindi appunta oggi un sogno, appuntalo domani, forse le ricorderete sempre con tutti i dettagli. E una volta che siamo svegli, Debora, andiamo a correre? Corriamo con delle amiche, perché torna a Roma l'appuntamento con Race for the Cure, una 3 giorni di salute, sport e benessere per raccogliere fondi e sostenere la ricerca per la lotta ai tumori del seno. Ne parliamo con un'amica, in linea con noi Rosanna Banfi, che è madrina insieme a Maria Grazia Cucinotte dell'evento. Ciao Rosanna. Buongiorno, ciao. Sei al villaggio della salute, al Circo Massimo. Sì, a proposito di sogni, ti stavo sentendo, potrebbe essere un sogno meraviglioso quello di sconfiggere il tumore del seno per le donne, sarebbe un sogno raggiunto e noi ci stiamo lavorando, vero? La ricerca ci sta lavorando e devo dire che ha fatto dei passi avanti. E voi correte proprio noi per sostenere proprio la ricerca. Per ottenere questo sogno e per sostenere tutto questo. Siamo a Roma oggi, domani e domenica, soprattutto che sarà il clou, sarà il giorno della corsa. Ci aspettiamo 100.000 presenze. Esagero, però può darsi, perché l'anno scorso c'erano 70.000 iscritti, è stata una cosa meravigliosa, è stata invasa Roma dalle magliette rosa, perché la maglietta rosa è quello che contraddistingue le donne in rosa che corrono per mostrarsi, per non vergognarsi, per non aver paura soprattutto, perché quello che mi preme dire è che la paura soprattutto, e la paura è più è peggio del tumore. Perché quella che ti blocca è quella che ti fa aspettare per farti controllare, e lì rischi veramente. Invece con la prevenzione, senza paura, si sconfigge. E noi sogniamo di riuscire a sconfiggerlo tutte quante insieme. Perciò io vi aspetto tantissimi qui a Roma domenica mattina alle 10, puntuali, per correre tutti quanti insieme e invadere la città. Oltretutto è un percorso meraviglioso, perché parte dal Circo Massimo e attraversa tutto il centro di Roma. Perciò è veramente un appuntamento a cui non mancare. E voi di Radio 24 ci siete stati sempre vicini. Grazie Rosanna, un grazie. Abbraccio a Rosanna. Grazie a voi per avermi chiamato. A Maria Grazia Cucinotti, che sono madrine dell'evento, ma naturalmente a tutte le donne. Abbracciamo loro per abbracciare tutte le donne che corrono insieme per sconfiggere attraverso la prevenzione questo tumore, questo nemico della nostra salute. Un sogno realizzabile. Grazie Rosanna, siamo con te. Ciao, ciao. E noi andiamo a sentire che cosa traffico, succede sulle sì. strade e sulle autostrade, andiamo di corsa e poi ritorniamo insieme. Cuore e denari. I pesci grossi stanno nelle acque più profonde e qualche volta vengono in superficie e fanno ciao ciao e fanno ciao ciao e poi tornano. Giovedì gnocchi, venerdì pesce lesso. Bravo, non solo lesso, ma pesce, ci sono tanti pesce. Modi. Venerdì di magro. Ecco, venerdì di magro, il pesce sta vivendo una seconda gioventù, lo consumiamo con maggiore frequenza, arriva quindi più spesso sulle nostre tavole, ma questo consumo maggiore ha fatto aumentare anche le frodi alimentari su questo alimento, tanto che l'Europarlamento sta lavorando a un documento che stabilisca un sistema di tracciabilità rigorosa contro l'etichettatura errata del pesce. Insomma, una vera e propria caccia alla frode del pesce, che è una delle pietanze più servite sulle tavole degli italiani e non solo. Oggi abbiamo in linea con noi il professor Luciano Azzori, che è biologo ed esperto in sicurezza degli alimenti e in tutela della salute. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Professore, allora, l'Europarlamento si batte per mettere fine alle frodi in tavola, ma per quanto riguarda il pesce, un conto è mettere un dato impreciso in etichetta, un conto invece aggiungere delle sostanze per far scambiare, no, una tipologia del pesce con un altro. Insomma, ci aiuti a capire che differenza c'è tra la frode alimentare e invece una frode sanitaria, non sono la stessa cosa. Andiamo in maniera più assoluta. Ecco. Allora, frode alimentare intesa come frode commerciale, nel nostro settore, nel settore ittico, comprende ad esempio ingannare sulla provenienza. Diciamo che questa spigola del Mediterraneo, mentre invece arriva dall'Asia, un aspetto. Quindi quella che viene dall'Asia ha dei tempi molto più lunghi e quindi ha un deterioramento maggiore, certo non sarà fresca e oltretutto costa anche di meno. Oppure la vendita di un prodotto ittico decongelato per uno fresco, questa è comunissima, i prodotti surgelati o congelati costano molto di meno. Oppure vendere una specie per un'altra, ad esempio al posto della cernia ci viene venduta per cernia, mentre invece il pangasio del Mekong, pesce che costa molto poco e che per di più spesso viene pescato in acque molto contaminate. Questi sono esempi, i tre tipici esempi di cosiddette frodi alimentari di tipo commerciale, che quindi incidono soprattutto sulla tasca del cliente, del compratore, mentre invece quelle sanitarie, le frodi sanitarie sono pericolose perché influenzano spesso non solo la tasca ma anche la salute, cioè l'aggiunta di sostanze chimiche che vengono messe nel pesce per poterne migliorare l'aspetto, quindi la vendibilità, per poterlo farlo credere fresco quando invece non lo è, con tutti i rischi che ne concorrono, sia dal fatto che si compra e si mangia pesce non fresco, e poi se vuole ne parliamo, sia dal fatto che queste sostanze chimiche spesso hanno un loro effetto nel nostro corpo. Di quali sostanze chimiche stiamo parlando, professore? Quali sono le specie più taroccate? Beh, sicuramente tra queste abbiamo il tonno. Certo. Il tonno, ci sono tante specie, però le più comuni sono due. Il tonno rosso, che è altamente pregiato, quindi costa anche parecchio, e il tonno pinne gialle, il più comune, quello che troviamo nelle classiche confezioni che compriamo di tonno, e che è sempre un ottimo prodotto dal punto di vista nutrizionale, solo che costa è meno pregiato. Chiaro. Allora, per poter vendere il secondo per il primo, cioè il tonno pinne gialle per il tonno rosso, si mettono ad esempio i nitrati. I nitrati sono delle sostanze chimiche che colorano la carne di un rosso forte, un rosso acceso, lo fanno sembrare quindi tonno rosso. E per particolarità, sono vietati nel pesce queste sostanze e sono cancerogene nell'uomo. Possono formare, essere precursori delle cosiddette nitrosamine, che nel nostro corpo sono sostanze cancerogene. Questo è un esempio. Altro esempio, sempre nel tonno, è l'aggiunta del monossido di carbonio. Il monossido di carbonio è un gas che mantiene vivo il colore originale. Noi sappiamo, quando andiamo in pescheria, vediamo un trancio di tonno, se lo guardiamo, facciamo dopo mezz'ora, lo vediamo già ossidato, si è già imbrunito. In realtà non è deprezzato, ma il consumatore non lo vuole più. Allora, per mantenere invece sempre il colore vivo, non alterarlo, cioè farlo diventare più rosso. Si corregge? Prima. Sì, no, si mette questa sostanza. E questa sostanza però ha un'azione anche di 30-40 giorni. Cioè, quel pesce sembra fresco, appena pescato, per 30-40 giorni. In realtà, anche se poi non dà gli effetti del pesce deteriorato, dentro sta maturando tutta una serie di sostanze dovute alla degenerazione che è naturale. Tra queste c'è la cosiddetta istamina. L'istamina è una sostanza che nel nostro corpo ha degli effetti fortemente nefasti, fino ad arrivare anche allo shock anafilattico. Sono semplici rasci. Diventa, ecco, allora, professore, ci sono tutti questi pericoli che il consumatore corre, E quindi dobbiamo affidarci e sperare nei controlli, che come dimostra l'indagine sembrano funzionare piuttosto bene, perché ricordo sono efficientissimi, ecco, che il commissario europeo alla pesca ha dato un dato su cui insomma noi possiamo, ci dà un margine di sicurezza. Dice che dai controlli condotti di recente in 29 paesi europei sono state riscontrate poche irregolarità, solo il 6%. Però consumatore informato, consumatore attrezzato, mezzo salvato, perfetto, ecco, giustissimo. È meglio saperlo. Non abbiamo, riconoscere il pesce fresco è difficilissimo. Molte persone dicono: ma io del pesce, di pesce me ne intendo, ma poi messe, no? Io farei un test e poi si scopre che proprio solamente gli super addetti ai lavori riescono a capirne qualche cosa. Professore, andiamo ad affrontare un'altra pratica molto utilizzata, che è l'utilizzo dell'acqua ossigenata per sbiancare le carni del pesce. Sì, allora questo viene utilizzato fondamentalmente su due tipologie: sul pesce spilettato, veniva utilizzato sul pesce spilettato, quindi ormai non più riconoscibile, sì, quello, l'origine, non posso più dire un'orata piuttosto che una spigola, fondamentalmente non ci riesco, e sui cosiddetti cefalopodi, cioè totani, seppie, polpi, tutti questi. Quelli che hanno le gambette, insomma, la testa e le gambette. Perché non hanno una struttura ossea. Ecco, questi per sbiancare le carni, questo perché il consumatore, io dico spesso, mangia prima con gli occhi e successivamente con la bocca, cioè vuole apprezzare il prodotto che sta acquistando, in questo caso il pesce, il totano, e pensa che si è fatto dentro la sua testa l'idea che più è bianco, più è fresco, più è naturale. In realtà quel bianco cangiante, che non è tutto tranne che naturale, è finto. Il fatto sta che questa sostanza, l'acqua ossigenata, è stata vietata 360 gradi su tutti i prodotti ittici fino ai primi febbraio di quest'anno. Dal 5 febbraio invece è legalizzata solamente per i cefalopodi che sono stati congelati, scongelati e eviscerati. Cosa vuol dire? Che noi quando compriamo dei totani congelati potrebbero essere legalmente trattati con acqua ossigenata. E quindi? Uno può dire, io mi leggo l'etichetta, non c'è. È così. Perché non c'è, per un semplice motivo, perché non essendo un additivo non c'è l'obbligo di indicarlo in etichetta, perché viene. Ma lei mi dà un consiglio magari di cottura, se io lo compro, io dico semplicemente, non comprateli, se sono troppo bianchi potrebbe esserci, non è naturale, deve essere un color crema, un color bianco sporco, non quel colore lì, e poi non è neanche detto che sia migliore degli altri, ecco, come prodotto. Più tenero, professore, più, no. Noi allora c'è sempre l'invito, no, a consumare pesce sulle nostre tavole, consumate il pesce, non meglio quello pescato e non quello allevato. Io invito sempre a mangiamo delle cose buone che ci facciano bene, ma rispettiamo anche l'ambiente. Quindi cerchiamo di non svuotare completamente i mari, professore Azzori. Quindi un consumo consapevole e rispettoso anche dell'ambiente. Io sono pienamente d'accordo con lei, e qui cosa intendo? Un consiglio che posso dare è di alternare l'acquisto di pesce cosiddetto selvaggio, quindi pescato, dal pesce da acquacoltura, che adesso l'acquacoltura rispetto a 10-20 anni fa ha fatto dei salti, dei progressi elevatissimi. Infatti questi pesci sono sempre meno grassi, sono spessissimo freschissimi perché vengono prelevati dalle loro vasche nel momento in cui c'è l'ordine, quindi non stanno a soggiornare sul mercato aspettando. Quindi sull'etichetta noi lo leggiamo se è allevato, da che tipo di allevamento arriva? Sì, sì. Se sono nelle vasche oppure in questo sistema in cui l'acqua di mare, no, entra, e quindi si nutrono anche, vivono anche in un ambiente congeniale. No, è indicato se è un pesce di allevamento o se è un pesce pescato, ma non è indicato la tecnica di allevamento. Questo no. Peccato. Sarebbe un arricchimento nell'informazione. Certo, noi facciamo questa proposta, metteteci anche il tipo di allevamento, e chiederei al professor Azzori di salutarci in un minuto, mettendoci magari, sottolineando alcuni aspetti che un consumatore dovrebbe conoscere per fare degli acquisti sani e in equilibrio, anche naturalmente nel rispetto dell'ambiente. Beh, due chicche. Il consumo privilegiare, il consumo di pesce azzurro. Sì? 30 secondi, pesce azzurro, mi dia un... di omega 3 che fa benissimo, però possibilmente di taglia piccola, di taglia piccola, e questo perché? Perché più è piccolo l'animale, specialmente se non è un predatore, e meno ha la possibilità di avere metalli pesanti nei propri tempi. Ah, quindi questa vedi che anche nel pesce piccolo, vedi come nelle donne piccole. Andiamo a sentire il nostro GR, torniamo insieme. Grazie professor Azzori. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Sì, dove eravamo rimasti? Oggi torniamo, come promesso, nelle anticipazioni che Nicoletta ha fatto nel giornale radio, con un veloce aggiornamento sulla questione degli obbligazionisti delle quattro banche salvate a novembre: Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Care Ferrara. Perché ci torniamo? Abbiamo già parlato del provvedimento con cui si stabiliscono le regole e i parametri in base ai quali spetta l'indennizzo totale o parziale dell'investimento iniziale dei circa 10.000 obbligazionisti a cui viene riconosciuto questo diritto. Poi ricorderemo questi parametri. Oggi però torniamo sulla vicenda perché negli ultimi giorni si è aggiunto un elemento molto rilevante secondo noi, e cioè ci sono nuovi e rilevanti sviluppi nell'inchiesta per truffe, bancarotta fraudolenta di Banca Etruria. Come ricorderete, ne hanno parlato molti giornali. Gli inquirenti hanno confermato che i livelli alti della banca impartivano degli ordini nei confronti delle filiali di vendere le obbligazioni subordinate. E questa è una novità. E poi dall'altra parte l'altra novità riguarda invece l'attività del commissario liquidatore della banca, Giuseppe Santoni, che ha depositato pochi giorni fa la relazione conclusiva sulla bancarotta, in cui si parla di una situazione irreparabile già in atto tra il 2012 e il 2013. Sono due tappe fondamentali per la procura di Arezzo, ma a noi quello che interessa capire è cosa cambia tutto questo ai fini dei risarcimenti a cui hanno diritto i risparmiatori traditi. Abbiamo interpellato di nuovo un avvocato in prima linea su questa vicenda, l'avvocato Corrado Canafoglia, della legale dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno e ben ritrovato, avvocato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, peraltro nei giorni scorsi sono state eseguite molte perquisizioni e sequestri nella sede centrale della banca ad Arezzo a carico di alcuni funzionari. Gli inquirenti ritengono proprio di avere individuato anche la circolare che, con la firma di questi due funzionari in particolar modo, avrebbe imposto ai direttori di filiale di piazzare alla clientela retail, quindi ai piccoli risparmiatori, le obbligazioni subordinate emesse nel 2013, che peraltro sono quelle che non hanno diritto all'indennizzo automatico, ma sono quelle per le quali i risparmiatori interessati dovrebbero ricorrere eventualmente all'arbitrato dell'ANAC. Quindi situazione molto complessa. Avvocato Canafoglia, questo presupposto di truffa su cui, che grava su Banca Etruria, in qualche maniera cambia anche l'attività che i legali, quelli in particolar modo in prima linea delle associazioni dei consumatori, seguiranno appunto ai fini dell'ottenimento degli indennizzi per i risparmiatori appunto traditi? Sì, è vero, questo è un aspetto molto importante per Banca dell'Etruria, perché se è vero che hanno accorpato tutte le quattro banche, è vero anche per sì che le quattro banche hanno ognuna delle sfumature, dei particolari a sé stante. Per quanto riguarda Banca Etruria è molto importante quello che ha fatto la Guardia di Finanza, che ha accertato, perché sta emergendo non solo la truffa, ma a questo punto vorrei spostare più là l'asticella, ovvero sia si può incominciare a parlare anche di associazione a delinquere. Fatto questo di cui si parla, per esempio, nell'indagine della Procura in Banca Marche, dove sono più avanti da questo punto di vista qua. Cioè sono andati oltre quello che è il semplice difetto di comunicazione, la semplice piccola truffa. Perché in realtà è una vera associazione che è stata posta in essere a danni di tutti i risparmiatori. E attenzione, non solo obbligazionisti, ma anche degli azionisti. Quindi insomma delle evoluzioni che dovremo seguire molto attentamente. Avvocato Canafoglia, intanto, come ricordavo prima, noi abbiamo già fatto immediatamente all'indomani appunto del varo del provvedimento la trasmissione in cui ricordavamo i criteri in base ai quali adesso gli oltre 10.000 obbligazionisti gabbati, li abbiamo chiamati così, appunto potranno ottenere i loro indennizzi rispetto all'investimento iniziale. Abbiamo ricordato che c'è per un bel gruppo di questi un rimborso forfettario automatico, per un altro gruppo viene invece previsto il ricorso all'arbitrato che sarà gestito dall'ANAC, l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone. Vogliamo ricordare i parametri per chi ha diritto a chiedere il rimborso forfettario automatico? Sono coloro che hanno un reddito lordo inferiore a 35.000 euro oppure hanno un patrimonio mobiliare, denaro, quindi tanto per capirci altri investimenti, comunque inferiore a 100.000 euro. C'è adesso da vedere, perché questo provvedimento poi deve essere convertito in legge, vedere alcuni aspetti particolari, ma abbiamo sentito che già ne hanno preso atto. No, la data, l'aspetto importante è quando hanno sottoscritto l'obbligazione. È molto importante, perché questa, la data è l'acquisto entro il 12 giugno 2014, quindi fino a quella data lì rientrano in questa ipotesi appunto di rimborso forfettario all'80%. Oltre quella data poi diventa un altro problema. Allora, la data ricordiamo che coincide con la pubblicazione in Gazzetta della Commissione Europea della direttiva che praticamente rappresentava il provvedimento preliminare all'introduzione del bail-in, tutto il pacchetto poi che è entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno, che disciplina le risoluzioni bancarie. Per cui data importante, cercate di ricordare quando avete fatto, se siete dei risparmiatori coinvolti appunto in questa vicenda, questo investimento. Ricordiamo che l'importo dell'indennizzo automatico e forfettario pari al massimo all'80% appunto dell'investimento fatto, e per fare richiesta di partecipazione al procedimento appunto automatico poi ricorderemo che cosa si deve fare, perché si deve naturalmente raccogliere tutta la documentazione relativa al contratto di acquisto delle obbligazioni. Allora, è un percorso facile chiedere la documentazione che attesti il contratto di acquisto, che attesti l'investimento fatto? A quanto pare non è facile raccoglierla, perché non tutti i risparmiatori è detto che ce l'abbiano in casa completa, motivo per il quale si è reso necessario firmare un accordo fra le 4 nuove banche nate appunto dalla risoluzione di novembre e le associazioni dei consumatori. Questa intesa è stata siglata appunto proprio ieri pomeriggio, per cui oggi è venuta a raccontarci i termini di questa novità Donata Monti, responsabile dei rapporti con le associazioni dei consumatori nella squadra di Roberto Nicastro, presidente delle Good Bank. Monti, buongiorno e ben ritrovata anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, andiamo subito a dare le informazioni essenziali ai nostri ascoltatori interessati a questa vicenda. Perché questa intesa, che obiettivo ha di velocizzare che cosa? Allora, l'intesa ha l'obiettivo di velocizzare, diciamo, il ricevimento da parte della banca su richiesta dell'associazione che avrà un mandato del proprio associato, della documentazione necessaria. Questo sarà fatto sia per quanto riguarda il fondo, sia per quanto riguarderà poi l'arbitrato, appena sapremo esattamente quali saranno i documenti. La cosa importante è che le banche metteranno a disposizione, su questo ci sarà anche un momento di formazione, delle persone che si interfacceranno con l'associazione dei consumatori in modo da trovare la migliore modalità per fare questo lavoro, che dovrà essere fatto entro, dal momento della richiesta, entro 15 giorni, e quindi verranno date le documentazioni, e soprattutto transiteranno su supporto analogico, quindi attraverso PEC, attraverso internet o altro, però garantendo la riservatezza della cosa, insomma, certo. Questa ma la cosa ancora più importante è quello intanto di definire insieme le checklist per la documentazione una volta che abbiamo tutte le informazioni. Cosa vuol dire questo? Cosa sono le checklist? Le checklist vuol dire mettere insieme, standardizzare, diciamo, la richiesta e quali documentazioni, in modo che la banca, comunque le persone che si interfacceranno con l'associazione dei consumatori, si organizzeranno per trovare, diciamo, in tempi molto brevi e avendo uno schema standardizzato la documentazione. L'altro è quella di fornire le informazioni, cioè condividere le informazioni da dare alle persone che dovranno ricorrere al fondo piuttosto che all'arbitrato, e poi metterle sui siti relativi sia delle banche sia dell'associazione consumatori. Faremo anche insieme, quindi condivideremo degli schemi tipo per la richiesta, diciamo, del pagamento alla banca in liquidazione, perché il decreto dice che va inviato insieme all'istanza al fondo per chi rientra in quel processo automatico, no? Di indennizzo, va inviata anche la richiesta fatta alla banca dell'indennizzo. Quindi costruiremo uno schema tipo insieme e costruiremo anche uno schema per l'accesso al fondo, insomma. Benissimo. Queste sono le cose. Quindi, insomma, queste tutte le novità che bollono in pentola, in attesa che il provvedimento che stabilisce i criteri per gli indennizzi automatici e il ricorso all'arbitrato, appunto, venga pubblicato in Gazzetta. Intanto, come avete sentito, appunto, c'è l'accordo fra le Good Bank e l'Associazione dei Consumatori, poi per velocizzare tutto il percorso di richiesta da parte dei risparmiatori interessati. Benissimo, allora ritorneremo presto su questo argomento, non appena sarà tutto pronto formalmente a partire, sia con l'avvocato Corrado Canafoglia che con Donata Monti, che ringrazio per essere stati con noi questa mattina. Intanto, cara Nicoletta, vedo che un ascoltatore ci dà che siamo una l'acciuga, l'altra l'anguilla, perché tu sei più alta e sono l'anguillona, però io ho un sacco di omega 3 io che cosa c'ho? L'anguilla è grasso pieno, no, proprio non è sì, vero. No, non mi anche piace. L'anguilla al suo e poi ci sono dei piattini, però saluterei. E parliamo di orecchio oggi, si può vivere orecchio, ma noi parliamo di orecchio, ma di naso chiuso, di naso che cola, di occhi che lacrimano, e di quel ha, senso di pesantezza alla testa e anche, tanto per gradire, cara mia anguilla, anche un po' di bruciore alla gola. Si mangiavano le acciughe, tra l'altro, forse per il mal di gola. In Danimarca staranno benissimo, la sua Copenaghen, che fanno colazione con... appunto con questo, no? Non anguille. Comunque, basta che vi guardiate un po' attorno. Noi l'abbiamo fatto in redazione, tutto un fiorir di starnuti e anche di lamenti, perché Deborah, le abbiamo sentite, no? Non ci sono più le stagioni di una volta, come mai avevo scampato l'influenza quest'inverno, guarda un po', se adesso devo prendermela di nuovo, povero me, sono già allergico e adesso mi è venuta anche mal di gola. Allora, vi riconoscete? Chiamateci 800 24 00 24 e ditemi se riconoscete anche magari qualcuno che vive accanto a voi. Secondo te, Deborah, generalmente chi è che si lamenta di più? Mi butti sul piatto la differenza di genere, così proprio? Pensa. No, c'è tutto quel filmato che gira su Facebook e sugli uomini che hanno praticamente il termometro non appena sale a 37,1 direttamente collegato con il 118, perché sai che segna, scatta l'allarme. È così. Gli uomini casualmente non appena hanno il raffreddore si buttano a terra, insomma si riempiono di aspirine e quant'altro. Perché secondo un'indagine, gli uomini quando si ammalano, è un'indagine di un'organizzazione britannica, quando si ammalano si lamentano molto di più delle donne e arrivano ad aggravare i loro sintomi pur di ricevere attenzioni. È tutta una strategia, dici? Certo. Allora, quindi un uomo su due descrive un comune raffreddore, dice l'influenza, basta una testa un po', sai, piena, oddio, l'emicrania che mi fa scoppiare la testa. Però diciamolo pure, i nostri ascoltatori, immagino che qualcuno stia già scrivendo, ecco, la buttate sempre lì, che a noi piacete così, vi amiamo proprio da per coccolare. Questo. E d'altra parte ancora la ricerca dice che nonostante il 34% delle donne non creda veramente che i loro mariti o fidanzati o amanti siano molto malati, il 62% gli dedica comunque delle attenzioni speciali. Allora, in realtà, Deborah, anch'io mi sento un po' influenzata. Ma dai, che ti coccolo un po'. Adesso aspetta, microfoni spenti, le ti un porto una tisanina. Dai. Le ho un po' tutte, ma anche un medico, un grande medico in linea con noi, il dottor Luca Malvezzi, medico chirurgo specialista in otorino laringoiatria e chirurgia cervico facciale all'Istituto Humanitas. Buongiorno dottore, già mi sento buongiorno. Meglio. Buongiorno Nicoletta, mi sente bene? Sì, adesso, insomma, mi buongiorno. Sento la testa un po' piena. Allora, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. I radioascoltatori, scusatemi, ho perso qualche pezzo del vostro discorso. Perché parlavamo male degli uomini che si lamentano di più, ma solo per ricevere attenzioni. Ma ci piacete così. Guardi, che posso confermare a tutto tondo, io non ho mai visto una donna, una signora, una ragazza giovane svenire in ambulatorio durante una visita, mentre purtroppo col sesso forte, cosiddetto forte. Ce la racconti, invitiamolo tutti i giorni. Il sesso forte, sì. Si sente sempre più, svengono più, durante più le visite quando viene, sì. Siamo noi che svegliamo durante le visite, noi che svegliamo quando l'importante viene è che non svenga il dottore, no, quello no, ecco, quello perché no. Risate, allora dottore, noi parliamo di questo raffreddore, no, l'abbiamo un po' beccato tutto, si dice un raffreddore passerà da solo, poi c'è la classica battuta secondo la quale il raffreddore senza medicine guarisce in 7 giorni, con i farmaci in 1 settimana. Comunque, questo a dire che è il tempo, col tempo passa, ma noi vorremmo liberarcene adesso, anche perché già il tempo è brutto, c'è il weekend, almeno non abbiamo sempre il bisogno di soffiarci il naso. Quindi facciamo in questi pochi minuti una sorta di piano d'azione dove lei deve guidare il gioco, è d'accordo? Benissimo. La sentiamo un po' male nel frattempo, poi tra poco proveremo a ripristinare il collegamento. Quando vuoi, con i mercati, se hai bisogno di un po' di pausa, ci sono. Certo, prendiamo un po' di respiro. Intanto, regola numero 1, iniziamo lavandoci le mani, dottor Valvezzi. Brava. Ecco, perché questo... Questa è una buona abitudine, lavarsi le mani soprattutto se... con il raffreddore, ad esempio, si ha la tendenza quasi inconsapevole, il tic, di toccarsi il naso e di portarsi un pochino di muco anche sulle nostre narici. Lo dico anche qui in modo molto ironico, ma quante volte ci capita di essere al semaforo fermi in macchina e vedersi il personaggio accanto che si tocca il naso con le dita. Ne state vedendo qualcuno? Se lo tocca è già tanto, perché fanno anche altro, ecco. Questo è un possibile veicolo di infezione, di contaminazione. Noi siamo degli untori in tutta la nostra giornata, e quando anche frequentiamo un ambiente chiuso sarebbe importante areare gli ambienti che frequentiamo quando siamo malati, perché chiaramente basta uno starnuto per contaminare le persone che ci sono accanto. Quindi fate attenzione a queste cose, lavatevi le mani, soffiatevi il naso magari con dei fazzoletti di carta, evitando quei fazzoletti di tela che si tengono in tasca pieni di microbi e che portano in giro. Ecco, poi sono da lavare e da stirare, quindi usate i fazzoletti di carta. E poi sono da lavare e da stirare. Fazzoletto di carta e via che si usato va. E buttato nel cestino e non fuori dal finestrino dell'auto. Allora, intanto abbiamo scatenato una cosa sui nostri ascoltatori, allora non vi piaccio perché non vi lamento. Cosa possiamo dire? Lamentatevi e ci piacete, non lamentatevi, ci piacete ugualmente. Un ascoltatore ci invita, amiamoci Deborah, non sappiamo se si lamenta o no, evidentemente al raffreddore, ma oggi attenzione soprattutto alle persone che sanno e hanno già ricevuto una diagnosi di allergia, perché con questo tempo, con questa nuova ondata di influenza, tra virgolette, una delle tante cugine dell'influenza, quando il raffreddore non passa in un allergico, la situazione potrebbe complicarsi. Quindi attenzione, perché il dottor Malvezzi ci darà delle indicazioni importanti, ma il nostro piano d'azione dopo il lavaggio delle mani prosegue al lavaggio del naso. Il naso funziona, no? È sempre un buon rimedio, dottor Malvezzi, per ogni età, naturalmente con delle piccole accortezze che riguardano la soluzione da utilizzare per il lavaggio e anche gli strumenti che possiamo impiegare. Molte persone, dottore, usano la netilotta, che è questa piccola teiera che ha un'ampolla con una base che raccoglie la soluzione per il lavaggio nasale, un lungo beccuccio, è molto semplice, si piega leggermente di lato la testa, si inserisce all'estremità del beccuccio nella narice, quella più in alto, si versa, no, lentamente la soluzione e questa esce dall'altra narice, da una parte entra, dall'altra parte esce, sarà naturalmente sufficiente respirare dalla bocca e ripetere l'operazione anche nell'altro senso. Le piace, dottore, questa lotta? La lotta neti, sì, certo, o neti pot, come viene definita nel mondo anglosassone, è uno dei tanti rimedi che si commercializzano, che si possono trovare in farmacia, che si possono trovare anche nelle parafarmacie, che si possono trovare probabilmente anche nei supermercati. Esistono anche delle cose un pochino più più facili, più semplici, eh? Basta anche una siringa grande negli adulti, della soluzione fisiologica che si può facilmente reperire in farmacia, e lavarsi il naso semplicemente con lo stesso metodo della letinota, con lo stesso metodo si deterge il naso, e il naso viene deterso da una narice, il muco esce dall'altra narice e tutto è fatto. Questo strumento, ecco, però dottore, quando lei dice il naso va lavato, cioè il lavaggio nasale, come dice la parola, vuol dire che il naso va lavato in un solo bagnato, quindi in pratica, certo, l'acqua deve uscire dall'altra narice per essere efficace. Assolutamente sì, ecco perché ad esempio consiglio sempre il lavaggio con la soluzione fisiologica, proprio perché è l'azione propulsiva della siringa che favorisce la rimozione di muco e la lubrificazione del muco, no? Poi, come dicevo prima, ci sono tantissimi device che si possono trovare, tantissimi prodotti preconfezionati, sono tutti a base di soluzione fisiologica, ma se il getto non è forte, come dice lei Nicoletta, si bagna il naso, si bagna e basta e non serve a nulla, si butta via tempo, si buttano via denari, quindi lavatelo, ma lavatelo bene. Tempo e denari, ma dottore, ci sono anche delle soluzioni in spray che sembrano, sì, più comode, no? C'è questo lavaggio in spray. A chi è consigliato e a chi invece è sconsigliato? È consigliato e sconsigliabile a chiunque e a nessuno, potrei dire. Mi perdoni la banalità, ma realmente è un pochino così. Lo spray di fatto è solo pratico, quindi è chiaro che in un bambino molto piccolo lo spray è più pratico che non la siringa, ma si può usare anche nel bambino piccolo una siringa, magari una siringa piccola, ecco, non una siringa di calibro grosso, per evitare che troppa fisiologica venga buttata nel naso e possa finire nelle basse vie aeree, anche con tossi e con spaventi per i genitori. È pratico lo spray quando si viaggia, è pratico perché non ci si può portare il boccione con la fisiologica. E certo, diventa un po' e quindi diventa scomodo. Adesso noi ci fermiamo, dottore. Nicoletta, mi scusi, l'importante è scegliere il prodotto. Spray, esistono degli spray col getto forte, quindi con un'azione propulsiva importante che possono fare al caso nostro. Allora, adesso noi ci fermiamo. Andiamo a sentire i mercati, poi Pronta. Ritorniamo dopo. Consigli per gli allergici, consigli per chi si sente un po' la testa un po' piena e per chi vuole magari liberarsi di quel senso di ovattamento all'orecchio. Sembra che anche il naso come l'orecchio si chiuda. Perché? Perché noi vogliamo liberare il naso, perché poi con Deborah parleremo di odori, di guarda, puzze. Altro che quelle che in condominio causano veramente liti a non finire e non si possono neanche risolvere, perché qua deve vigere, come dire, la regola del buon comportamento, della buona educazione, ma quindi non ci sono strumenti per combattere. Quindi non so se il dottor Malvezzi deve insegnarci a liberarci il naso per catturare gli odori, ma faremo anche un test del nostro olfatto prima di buttarci sulle puzze. Adesso mercato. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Monsieur, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Visto? È tutto qui. Beh, naturalmente. Oh no, giovin signore, voi mi derudete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio, torniamo insieme e parliamo di naso. Tra poco parleremo degli odori che sentiamo nei nostri condomini e che ci fanno litigare con i nostri condomini. Ce ne sono un po' di tutti i colori. Di tutti gli odori. E parliamo di naso, parliamo di orecchie. Il tempo lo impone. Ci siamo ribeccate una influenza, una sorta di cugina dell'influenza. Sei ribeccata, vera. Parliamone, che in ma guarda che adesso arriva anche te, perché dai, già quella dei miei nipoti me la sono portata avanti un sacco di giorni. Dottor Malvezzi, spargo un po' di microbini, così se la becca anche Deborah, l'anguilla, io sono l'acciuga. Allora, dottor Malvezzi, mi avete fatto uscire all'aperto per comunicare con voi, prima non mi sentivate, quindi me la prenderò anch'io. Così vediamo se lei è veramente un uomo vero, duro e forte sotto le intemperie per parlare con Cuore Denari. Allora, dottore, abbiamo lavato il naso. Sì. Ecco, che aiuta le persone che sono allergiche, va bene per i bambini anche se sono piccoli, non proprio bebè, per tenere pulito il naso, che è una sorta di manutenzione ordinaria che comunque ha anche una funzione preventiva. Ma non è che tutti i giorni dobbiamo lavarci il naso, no? Beh, non sarebbe male, Nicoletta. Le piacerebbe? Male perché... Ma guarda, guardi, pensi a quello che respiriamo. Pensi a cosa succede quando fa una passeggiata in giro per una città come Milano. Si torna a casa, si strucca, cosa trova sulla faccia? Guardi, il posso nero dell'inquinamento lo trova anche nel naso. Quindi lavarsi il naso, esattamente come ci si lava i denti, dovrebbe essere un'abitudine quotidiana per tutti. Per tutti, non riusciremo mai a farlo capire, forse ci arriveremo fra 10 anni, ma dovremmo fare così esattamente come ci si lava i denti. E Marco da Milano l'ha già capito, vedi come sono andata, vedi come che... Marco, buongiorno. Uomo. Buongiorno, grazie per farmi partecipare, vi ascolto sempre assiduamente, vi ho visti anche al Cibus. Le ho viste anche al Cibus. Allora ci ama ancora di più, Marco. Sì, lo sì, dica. Sì, assolutamente. No, io tutte le mattine ho questa usanza, diciamo così, di sciacquare, inalare l'acqua del rubinetto nel naso e poi tranquillamente soffiarmi il naso dentro nel lavandino, chiaramente facendo poi sparire tutti quelli che sono i residui. Ah, va bene. Però diciamo che sì, ci tenevo a dirlo. Che quindi è anche ordinato, vuol dire. Anche pulito e ordinato. Ecco, anche perché, come diceva il dottore, io faccio un mestiere in automobile tutto il giorno e decisamente... Però usa direttamente l'acqua del sindaco, quella millimetro zero. Dottor Malvezzi, fa bene Marco? Ma l'acqua del sindaco è pulita, però è sempre meglio la fisiologica, è un prodotto bilanciato, ha il pH giusto, l'acqua del lavandino può essere un pochino fastidiosa, soprattutto sulla più irritante, ecco. Però non è male anche questo, ma dico a Marco, bene che lo faccia la mattina, lo faccia anche la sera, se non lo fa la sera. È importante sia la mattina che la sera. E poi Nicoletta, ho sentito l'aggancio alla vostra trasmissione dopo la pubblicità, mi pare che si citasse un brano di Cyrano de Bergerac, sì. O sbaglio? Bravo, ecco. ma vedi che ci piace. E si diceva il naso è grande, è vero, il naso è grande, ma noi non dobbiamo parlare solo di naso, dobbiamo parlare di faccia, è lì il problema, è la faccia che conta, il naso è una parte della nostra faccia, le fosse nasali danno accesso ai semi paranasali, il nostro volto, la nostra faccia è fatta come tante stanze, tutte comunicanti fra di loro, tutte comunicanti con il naso, queste stanze che si chiamano semi paranasali. Allora, quando abbiamo un piccolo raffreddore, è ovvio che il muco che produciamo non è solo nel naso, è anche nei semi paranasali, può essere anche nelle orecchie, allora si sente la testa piena, ci si sente storditi, è normale questo, è normale, fa parte della sintomatologia. Oggi non si parla più di raffreddore, di common cold, come lo chiamano gli inglesi, si parla di rinosinusite virale, proprio per enfatizzare questo concetto, per sottolineare come tutti i segni paranasali sono interessati nella patologia temporanea, e allora un pochino di giustificazione sul malessere lo dobbiamo dare. Dottor Malvezzi, avevo anticipato che avrebbe dato delle indicazioni, della raccomandazione, avvertenze per gli allergici. Certo, e quello che succede negli allergici è questo, c'è una compartecipazione anche nell'allergico di tutti i segni paranasali, ma qui stiamo parlando di una cosa diversa rispetto al raffreddore. È vero, il raffreddore può essere un raffreddore portato dall'allergia. Pensiamo che in Italia, in un paese come l'Italia, si può essere allergici per fioriture in 11 mesi su 12. Abbiamo questa grande fortuna. Questa grande fortuna, Malvezzi. Sì. L'unico mese considerato della non allergia è novembre. Tutti gli altri mesi possono essere interessati da fioriture. Poi se siamo allergici anche al dermatofagoide della polvere, siamo allergici sempre. Qui stiamo parlando di pazienti particolari, perché la rinite allergica è una patologia da non sottovalutare, è una patologia da trattare, soprattutto in fascia a rischio, nei bambini, negli anziani, soprattutto in quei pazienti a cui la rinite allergica si associa a problematiche delle basse vie aeree, iperattività bronchiale, asma in alcuni casi. Il paziente va monitorizzato ogni anno non solo in ambito allergologico e pneumologico, ma anche otorinolaringoiatrico, perché a volte l'evoluzione naturale della rinite allergica è la rinosinusite con o senza polipi, e a volte la rinosinusite con o senza polipi non riconosciuta può portare a delle problematiche sulla bassa via aerea serie, bronchiti ad esempio, broncopolmoniti più raramente, e a volte purtroppo la diagnosi arriva prima da parte dei pneumologi, del pneumologo attento che fa un'anamnesi seria al paziente e che trova come causa delle bronchiti ricorrenti proprio la rinosinusite. Il nostro naso, il nostro massiccio facciale è come se fosse lo zerbino di casa, è il filtro dei nostri polmoni. Mi piace questo, vedi? È il termoumidificatore dei nostri polmoni. Se il naso funziona male, se i seni paranasali funzionano male, ahimè, a volte funzionano male anche i polmoni. Allora, dottor Malvezzi, teniamo bene questo zerbino di casa, ecco. Teniamolo, puliamolo, perché sennò tutta la sporcizia la portiamo poi in casa, e proprio di case parliamo, di tra case nei pronti. Condomini, e di case di odori, e vediamo come funziona il nostro naso, anche questo è un test della sua efficienza. Inviteremo presto il dottor Malvezzi per parlare di olfatto. Ma ci deve venire a trovare, perché con questo telefono che non funziona qua abbiamo bisogno della sua presenza qui. Dottore, la invitiamo a venire qua in studio. Grazie. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a voi. Buona giornata. Allora, cambiamo argomento. A fianco a me c'è una vecchietta che tiene il televisore altissimo. Fortuna che abbiamo le pareti di cartavelina, così riesco a abbassare il volume suo col telecomando mio. E quando facciamo le riunioni è un incontro di wrestling. L'amministratore ci perquisisce in tenuta antisommossa. Una volta la signora Bartolini fa: signora Bartolini, senta, la dentiera la lasci qui, questa è arma da taglio. E in tasca che c'ha? La dentiera di mio marito, non poteva venire, ma ha data la delega. Siamo noi. La vita di condominio è difficile, naturalmente, in questo caso, in questo brano tratto da uno sketch di Cirilli, appunto, c'erano in ballo dei rumori particolarmente forti, quindi il televisore del vicino quando il volume appunto è insopportabile. In realtà il tema che introduciamo noi oggi, lo avete sentito anche nelle anticipazioni che abbiamo fatto poco fa, riguarda invece la classifica degli odori che si propagano in condominio e che più facilmente fanno litigare i condomini italiani. Allora, proprio ieri ha stilato una simpatica classifica la NAMMI, l'Associazione Nazionale Europea degli Amministratori di Immobili. Questa mattina abbiamo con noi il presidente Giuseppe Bica, che salutiamo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno. E allora, insomma, una classifica davvero curiosa, che però adesso, sulla quale alzeremo il velo dopo aver sentito i suggerimenti per chi sta viaggiando. Intanto già molti ascoltatori ci stanno provando a raccontarci qual è quel rumore, quell'odore particolarmente fastidioso che ha compromesso anche un po' le relazioni di condominio. Vi invito a raccontarcelo all'800 24 00 24, vi aspettiamo. Cuore e denari. Siamo noi, condomini del mondo. Allora, una controversia che avete dovuto affrontare nel vostro condominio era dovuta proprio a odori molesti. Eravate gli inquisitori o gli accusati? Come andate a finire? Vi siete rivolti all'amministratore di condominio? Come ha gestito questa faccenda? Giuseppe Bica, stamattina con noi, presidente della NAMMI, l'Associazione Nazionale Europea degli Amministratori di Immobili. Allora, questa associazione ha preso questa iniziativa, ha fatto un'indagine fra i suoi 13.000 associati e, presidente Bica, a quanto pare avete scoperto che il primo motivo di lite fra i condomini sono proprio le cosiddette immissioni, rumori ma anche odori. Sì, sicuramente sì, ha detto bene lei, le immissioni sono regolamentate dal codice civile, l'articolo 844, che appunto dice che l'immissione non può essere impedita a meno che non superi la normale tollerabilità rilevata nel contesto di riferimento. Ecco, questa norma fa molto discutere, perché stabilire il limite della normale tollerabilità è sempre molto difficile. È molto personalizzabile, ecco, la faccenda. Certo, diciamo, anche perché gli strumenti di misura sono piuttosto aleatori. Adesso ci sono i cosiddetti nasi elettronici, usati anche nel controllo dell'aeroporto, dove si odora l'esplosivo, ma insomma siamo ancora in una fase molto sperimentale. Allora, quindi, leggevo nella vostra indagine, Presidente, che delle 67.000 consulenze tecniche che fornite in tutta Italia come associazione, circa 20.000 riguardano proprio controversie sui cattivi odori percepiti negli spazi comuni, ma anche negli appartamenti, e qui chiaramente poi si vanno a gestire in maniera diversa. E quelli degli odori, il ruolo principale lo hanno gli odori di cucina, ecco. specie in un contesto dove c'è la convivenza con altre cucine, quella etnica soprattutto, visto la presenza massiccia oramai di persone extracomunitarie, il problema esiste effettivamente per le spezie molto odorose che usano queste, esatto, cucine. Che ma però fanno molto bene alla salute. Prima cosa, seconda questo cosa. Voglio sottolinearlo, anzi, impariamo a usarle esatto, anche noi. Ma poi il Presidente Bic ha fatto anche un'altra raccomandazione ieri nel comunicato stampa allegato appunto a questa indagine. Evitate per cortesia gli scontri di civiltà, perché ci troviamo spesso di fronte a condomini che non sopportano le spezie, ma poi, Presidente, cucinano che cosa? I cavoli per esempio alle 7 del mattino. La nostra cucina mediterranea in certe spezie, in certe perdure, in certi odori, voglio dire, certo, non hanno niente da invidiare alla cucina etnica. Quindi ecco, noi abbiamo organizzato, penso ultimamente, una bella cosa in un'assemblea di condominio dove già sapevamo l'argomento principe era la contestazione di una famiglia abitante nel condominio del Bangladesh. E abbiamo invitato questa famiglia a preparare un po' di piatti tipici, e così è andata con grande soddisfazione. È stata una bella festa, amici. Ma sì, che bella idea, sì, guardi. Vedi, infatti è il classico aggiungi un posto io a tavola. Io vi dico una cosa che succede anche nel mio condominio, ma sinceramente quando arrivo a casa, soprattutto la sera, che sento questo odorino, busserei volentieri alla porta, mi farei invitare a cena perché è bella pronta, per cui altro che scontro di civiltà. Però Presidente Bic, allora andiamo invece al tema e come va affrontato nel momento in cui il conflitto in condominio su questo argomento è particolarmente acceso. Che competenza ha nella gestione di questa faccenda l'amministratore di condominio? Perché immagino che la prima cosa che facciano i condomini scontenti sia quella di rivolgersi a voi. Sì, certo, questa è la fase auspicabile, cioè rivolgersi all'amministratore di condominio, perché molto spesso si sana con una situazione tecnica, cioè le canne di aspirazione normalmente non funzionano o addirittura all'interno sono state modificate nel corso del restauro dei vari appartamenti, molte canne non assolvono più quella funzione che dovrebbero avere, quella di esalare all'esterno tutti gli odori. Quindi mettere un aspiratore più potente, controllare la colonna fumi fino al scolmo del tetto, quella già risolve il problema. Quindi una piccola attività di manutenzione straordinaria, magari dell'immobile, appunto, potrebbe risolvere la questione. Secondo, se non è lì il problema? Ma guardi, girando a New York, nel centro di New York, si sentono 100.000 odori, proprio il tipico dell'insieme di etnie, di cucina, di tradizioni. Quindi dovremmo adeguarci pure noi. Se dobbiamo essere una città, un paese all'avanguardia anche nel sopportare in qualche modo queste spezie, probabilmente riusciamo anche a avere la buona convivenza. Allora, con le spezie lei suggerisce di cominciare ad imparare a convivere. Molti condomini però litigano fra di loro anche per la questione degli animali, a parte l'animale più o meno rumoroso, ma il tema è, Presidente, l'urina del cane e del gatto, che pure appare fra le motivazioni più citate come appunto motivazioni di lite, perché anche quella emana un cattivo odore naturalmente. In quel caso ci si può lamentare in via formale con l'amministratore di condominio e fare qualcosa? Sicuramente sì, ma poi gli indagati non sono neanche gli animali, sono ovviamente certo, i padroni degli animali, perché voglio dire, mettere un cane di grossa taglia in un balconcino di 2 metri quadrati, se non peggio, voglio dire, è una grossa cattiveria nei confronti dell'animale, quindi cani sì, gatti sì, quello che vogliamo, ma negli spazi che possono essere sicuramente più naturali e più confacenti all'animale stesso, quindi quel cane è obbligato a fare i suoi bisogni nel terrazzino, magari abbandonato tutto il giorno perché la famiglia è impegnata. Ma questo è maltrattamento. Esatto. È maltrattamento, esattamente. E quindi anche qui un invito un po' ad una responsabilizzazione. Andiamo invece, Presidente, ad altre situazioni ancora più complesse. Allora, ammettendo che io abiti sopra un bar, sopra un ristorante o sopra, per esempio, un'officina, la bottega di un artigiano che impiega vernici e solventi. Qua che succede? Ecco, qui si invoca appunto il disposto dell'844 dell'immissione. Lei pensi per esempio a una bella pasticceria o a un forno, quando ci si passa vicino c'è veramente un buon odore. È vero, invece se ci si abita sopra non è così. Se è persistente comincia a essere un fastidio. Quindi esistono strumenti tecnici, l'abbattimento dei fumi, l'abbattimento delle parti oleose del fumo stesso, quindi la soluzione tecnica c'è sempre, bisogna trovare la disponibilità a metterla in atto. E ovviamente il riferimento, a proposito delle emissioni, il riferimento è importante, cioè mettere una porcilaia in campagna è un'emissione non dannosa e tollerabile. Se la stessa porcilaia la mettiamo in un centro abitato, ovviamente questa in un condominio di 40 appartamenti. Cioè. Perfetto, Presidente, perfetto. Abbiamo 10 secondi di tempo, 20 prima di salutarla. Perché avete voluto stilare questa classifica ad andare ad indagare questo fenomeno? È proprio per cercare di porre rimedio. I nostri amministratori di condominio che fanno i corsi d'aggiornamento, nei corsi d'aggiornamento abbiamo curato in particolar modo in Anammi proprio la distinzione e la presa d'atto di quelle che possono essere le emissioni che sono diverse. Il rumore del tacchettio dei tacchi femminili, per esempio, in orari veloce che stiamo salutando, quindi il tema è dare strumenti agli amministratori di condominio per dirimere che queste controversie. Sono i mediatori molto spesso di questa controversia. Grazie Giuseppe Bica, presidente della NAMMI. Nicoletta, abbiamo terminato questa lunga settimana, ma anche la prossima è ricchissima perché siamo in trasferta anche settimana prossima. Voi qualche seguiteci giorno. E non sbagliate. E vi portiamo in una bella località di mare. Buon weekend a tutti.